Buona liberazione! Visionari, giovedì 25 aprile del 2013, 87.900, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, il cinema come ogni giovedì dalle 14 alle 15. E per saperne di più, la scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala, nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo, gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, rassegne e proiezioni, il link per riascoltare la puntata precedente, tutto l'archivio del 2013-2012 e basta. Per contattarci l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per inviarci sms il numero è 342-357-4357. Abbiamo, oltre alla pagina di Visionari sul sito internet della radio, anche quella Facebook. Diamo inizio con qualche minuto d'anticipo perché abbiamo diversi ospiti. Benvenuto, ben ritrovato ad Antonio Bellia per quanto riguarda la quinta edizione del Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, dal 9 al 14 luglio. Ci sentiamo oggi perché sono gli ultimi giorni per il bando di iscrizione. Antonio, ben ritrovato. Sì. Grazie mille Federico, grazie, un saluto a tutti. Sì, il festival è arrivato alla quinta edizione e il bando per partecipare, per iscriversi scade il 30 aprile, per cui sono davvero gli ultimi giorni in cui poter iscrivere il proprio film. Il festival è diviso quest'anno in tre sezioni perché c'è una nuova sezione competitiva, c'è la sezione documentari sopra i 30 minuti, la sezione cortometraggi e animazioni sotto i 30 minuti e quest'anno abbiamo aggiunto una sezione di mobilità sostenibile grazie al supporto della FIAB che è entrata a far parte tra i nostri partner, che offre un premio in denaro di 500 euro per il miglior cortometraggio sullo sviluppo, sulla mobilità sostenibile, mentre il primo premio per il miglior documentario di 1000 e per il miglior corto anche su 500. Senti Antonio, questo festival è una tua creatura, se non sbaglio, che sei documentarista. Raccontaci un po' di questa esperienza. Sì, guarda, io lo considero un piccolo gioiellino a cui non riesco proprio a rinunciare. È nato 5 anni fa, in modo alquanto casuale. C'era un po' di anni che io volevo costruire un festival. Una sera ero lì a San Vito e parlando con uno degli amministratori, si è entusiasmato all'idea, è una cosa quasi inverosimile e nel giro di pochi mesi è nata la prima partecipazione, il primo festival Sicilia Ambiente, che è un festival dove l'ambiente è importante ma è un ambiente in senso molto più ampio, cioè il rapporto uomo-ambiente, quindi è un festival sullo sviluppo sostenibile, per cui i nostri temi sono ampi, dai diritti umani appunto alla tutela dell'ambiente. E i nostri partner sono altrettanto, devo dire, sono orgoglioso dei partner che abbiamo, perché in questi anni abbiamo avuto Greenpeace, abbiamo avuto Amnesty International, abbiamo avuto appunto la FIAB, le ACLI, le ACCI, cioè un po' tutto il mondo, diciamo, dell'associazionismo che si occupa di diritti umani, ambiente e tematiche sociali. Senti, che percorso c'è stato in queste 5 edizioni? Avete sviluppato più alcune categorie? Arrivano sempre più materiali? Raccontaci un po'. Sì, guarda, devo dire che questa cresce di anno in anno. Tra l'altro l'anno scorso, questo lo dico anche per quest'anno, è valido, per i problemi economici e ovviamente di sopravvivenza abbiamo messo una piccola tassa di iscrizione che è veramente comunque simbolica, perché sono 10 euro per i corti e 15 euro per i lunghi. Pensavo che sarebbe stato un crollo vertiginoso delle iscrizioni, perché io stesso quando iscrivo i miei lavori mi infastidisco quando trovo una tassa di iscrizione, no? Sì. Una quota di iscrizione. Però devo dire che abbiamo avuto una crescita costante, anche quest'anno tra l'altro, forse per la nostra presenza su dei siti specializzati in alcuni paesi sudamericani e francesi, abbiamo avuto una soprattutto l'80% degli iscritti sono stranieri, sono Sud America, in particolare Argentina, moltissimi francesi e spagnoli con le loro scuole anche di animazione che sono validissime, devo dire bellissime, e che ormai sono diventati i nostri partner. Poi abbiamo fatto un gemellaggio con una delle scuole più prestigiose di documentari in Francia, che è la scuola Varane di Parigi, quella fondata da Luc Godard, per capirci, sì, e che quest'anno è gemellata con noi. E quindi devo dire, ci stanno arrivando tantissimi, tantissimi lavori dall'estero, e secondo me si sente un po' in realtà questa crisi in questo nostro paese, che sembra colpire profondamente anche il nostro settore, perché sono diminuite le opere italiane. Mm-hmm. Questo è un dato ineluttabile proprio. Volevo chiederti un paio di cose, Antonio. Sì, quante sono le opere più o meno che presentate in ogni edizione, e poi come è vissuto un festival dedicato all'ambiente e ai diritti nel Trapanese? Guarda, le opere sono, ci sono di solito circa 10 documentari in concorso lunghi, una 20-25 tra corti e animazioni, e adesso ce ne sarà con questa nuova sezione, ce ne saranno altri 8-9 sempre di animazione, e sempre, sempre di cortometraggi e animazione. E poi ci sono una serie di eventi speciali, abbiamo ospitato nei nostri anni Daniele Incalcaterra, che è un nostro carissimo affezionato, quest'anno forse faremo l'Impenetrable, l'ultimo suo film andato a Venezia, e poi abbiamo ospitato tanti piatti da registi come Marco Beghis, e poi abbiamo una giuria prestigiosa ogni anno, molto, che in questo momento è in fase di costruzione, cioè in realtà ce l'ho già, però non ho un'ufficialità, quindi preferisco non dirla. E il Trapanese, devo dire, quello è un territorio, scusate le campane, ma quello è un territorio, la San Vito Lo Capo è una zona ovviamente molto particolarmente turistica, dove raccoglie una partecipazione di gente da tutte le parti d'Italia. Mm-hmm. E quindi diciamo il nostro pubblico è molto eterogeneo, però è accolto benissimo, e devo dire la cosa che mi ha stupito è che un'amministrazione di destra, insomma, che pensavo non avrebbe mai accettato e concepito una cosa del genere, ci ha aiutato sorprendentemente, ma non perché appunto l'appartenenza politica, ma perché hanno capito, anche loro hanno capito che l'ambiente, la tutela dell'ambiente e le iniziative legate alla conoscenza della tutela dell'ambiente possono solo aiutare quel territorio. Mm-hmm. E questo è un messaggio che sta passando forte, e ogni anno il festival raccoglie nuove adesioni, nuovi partner. Non abbiamo mai perso uno dei partner che avevamo trovato nel nostro percorso, ma ogni anno ne accresciamo bene di qualcuno. Quindi questo penso che sia, e poi la forza del festival, lasciamo dire che San Vito Lo Capo c'è un mare straordinario e quindi devo dire che noi ospitiamo i registi in concorso, li ospitiamo sempre per pochissimo, per una notte sola, perché non ci possiamo permettere, tu gli stranieri per due notti, gli italiani per una notte, e devo dire che sorprendentemente una cosa che mi stupisce tutti gli anni, vengono praticamente tutti e penso che una buona percentuale dipenda dal fatto che lì c'è la riserva naturale dello Zingaro, ci sono dei posti meravigliosi, e quindi vale la pena farsi qualche giorno in estate di mare nel Trapanese. Quasi quasi infatti Vengo a trovarvi. Infatti, anzi, dateci un supporto come radio, che noi abbiamo bisogno di voi, e spero che, insomma, magari faremo delle puntate durante il festival, se vi andrà bene. Perché no? Senti, Antonio, in chiusura diamo i riferimenti per il bando di iscrizione? Sì, allora, per iscriversi basta andare sul sito, che è www.festivalsiciliaambiente, con una sola A, tutto attaccato, .it. Lì si può scaricare il bando di partecipazione, l'entry form, si compila e si rispedisce per email stesso, e quindi, oppure si può andare anche su dei siti dove caricare il video, come moviebeta.com, www.moviebeta.com, in quel caso non c'è bisogno di spedirlo il film, ma si può direttamente caricare sul sito. Antonio, un abbraccio e ci sentiamo presto. Infatti, vi aspetto sia a voi della radio, sia ascoltatori. Un abbraccio, ciao Antonio. Grazie tanto, ciao. Antonio Bellia, direttore della quinta edizione del Sicilia Ambiente Film Festival a San Vito Lo Capo, provincia di Trapani, dal 9 al 14 luglio. Per ascoltarci potete ascoltarci, oltre che con la radio, anche in streaming in diretta dal sito internet della radio ondarossa.info. Sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. Proseguiamo. Ecco noi Livia Parisi, regista del documentario Al Khalil. Benvenuta a Visionari su Onda Rossa, Livia. Bentrovati, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori e soprattutto buon 25 aprile. Esatto, buona liberazione. Allora Livia, Al Khalil è il nome di una di un luogo più noto con un'altra denominazione. Raccontaci un po' di questa storia. Sì, Al Khalil è il nome arabo di Hebron, una città in realtà molto conosciuta, anzi è la seconda città del più importante del, della Palestina dopo, dopo Gerusalemme, della Palestina e di Israele. È un centro culturale importantissimo, oltre che centro artistico e architettonico. È un centro religioso di fondamentale importanza tanto per gli ebrei che per gli arabi, perché qui si trovano le tombe dei patriarchi, anche ricordata come la città dei patriarchi, no? Quindi le tombe di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Ho intitolato questo, questo mio lavoro Al Khalil proprio per voler sottolineare l'importanza di riattribuire anche ai luoghi il loro nome originario. Al Khalil è una città araba, è una città che si trova in Cisgiordania, nei territori occupati, che è stata praticamente completamente colonizzata dai, dagli israeliani, che nel corso del, degli ultimi 30 anni hanno letteralmente distrutto il tessuto economico cittadino. Attualmente la popolazione è a stragrande maggioranza araba, parliamo di circa 220.000 persone, e il nucleo di coloni israeliani è molto molto piccolo, sostanzialmente sono circa 600 persone complessivamente, ma sono difesi, pensate, da 2.300 soldati, quindi ci sono 2.300 soldati israeliani che difendono 600 coloni. La particolarità di Al Khalil, o Hebron come la vogliamo chiamare, è proprio il fatto che i coloni si trovano all'interno del centro storico cittadino e non come avviene in tutti gli altri come dire, luoghi dei territori occupati palestinesi, nella campagna, sulle colline. In questo caso gli insediamenti sono esattamente all'interno della città e quindi succede che i palestinesi e gli israeliani si trovano a dividere proprio anche le mura di casa. Questo crea una situazione di tensione altissima, certo. Si sposa praticamente quotidianamente in scontri, in provocazioni più o meno violente. Si parte dalle pietre che vengono quotidianamente lanciate da parte dei coloni, tanto che le case palestinesi sono tutte protette da reti metalliche, quindi le finestre e le porte hanno tutta una rete metallica che impedisce agli oggetti che vengono lanciati di praticamente di sfondare i vetri, e si prosegue con vere e proprie risse. Molto spesso questi episodi avvengono in momenti clou, quindi in occasioni di festività, ma non solo. Magari basta semplicemente che un palestinese cammini per strada per attirarsi in qualche modo la come dire, la rabbia di un qualche colono. La cosa incredibile di questa città è che anche la via principale, quella che collega il nord e il sud di Hebron, è completamente chiusa al traffico, non solo dei veicoli ma anche dei pedoni palestinesi. Quindi quella che era la strada del commercio, dei negozi, la strada appunto dove risiedeva il grosso del tessuto economico cittadino, è stata completamente chiusa ai palestinesi, ci camminano solamente i coloni, i negozi sono stati sigillati dai soldati, e questa strada si chiama Shuada Street, è un nome che forse insomma qualche ascoltatore ricorderà, perché di recente a febbraio, il 25 febbraio come ogni anno, è stata portata, insomma, è stata fatta in tutto il mondo, in Italia compresa, la campagna di solidarietà per la riapertura di Shuada Street, perché appunto da anni si chiede che questa strada venga riaperta ai palestinesi, perché il fatto di chiuderla non significa solamente chiudere una strada, chiudere i negozi, ma significa rendere estremamente complicata la vita dei cittadini, perché magari per raggiungere un posto all'altro della città devono fare magari il giro e impiegare so, un'ora per raggiungere un posto che potrebbero raggiungere in dieci minuti. Questa cosa è stata molto evidente in una delle persone che ho intervistato, mi ha appunto raccontato proprio questo, mi ha mostrato questa una donna circa 50 anni che abita proprio sulla Schwada Street, quindi su questa strada chiusa, davanti la sua abitazione c'è il cimitero dove sono sepolti i genitori. Lei, per andare a trovare i genitori al cimitero, non può attraversare la strada e quindi metterci veramente un minuto, deve uscire dalla parte retro, perché anche la porta è stata sigillata, uscire quindi dalla parte retro, fare tutto il giro della città e finalmente arrivare al cimitero. Questa è la situazione quotidiana ad Hebron. Livia, anche sulla base della mia esperienza, secondo me Hebron o Al-Khalil è l'emblema della questione israelo-palestinese. Anche in un documentario molto importante, anche molto apprezzato a livello internazionale, This is my land Hebron, la questione viene fuori in maniera limpida, cristallina. Tu nel tuo documentario hai seguito da vicino l'attività di giovani che in maniera non violenta si oppongono alla colonizzazione. Esattamente, sì, il film che citavi di Silvia Amati, di Ismaele Debron, è forse insomma l'opera che meglio racconta la vita quotidiana in questa città e la difficoltà del vivere in Palestina, che è sostanzialmente un modo che lo Stato israeliano ha per dire: non vi possiamo mandare via fisicamente, ma faremo il possibile per far sì che ve ne andiate voi. E quindi ecco, tutte queste difficoltà quotidiane hanno anche un po' questo significato. Io, come dicevi, ho scelto di raccontare un aspetto particolare di questa città, proprio perché comunque tutto sommato meglio del film di Silvia non avrei comunque potuto fare, e ovviamente non avevo neanche i mezzi né il tempo, perché insomma il mio documentario in realtà nasce proprio più che altro per un'esigenza di racconto. Mi trovavo quest'estate in Palestina in realtà per un campo di lavoro estivo, mi sono trovata ad Hebron e è stato impossibile non trovare una chiave per esprimere tutto quello che vedevo davanti ai miei occhi. Ho raccontato la storia di questo gruppo, di questa associazione di attivisti umanitari, Youth Against Settlements, sono i giovani contro l'insediamento. Loro diciamo da alcuni anni a questa parte stanno portando avanti un movimento di resistenza non violenta, che è particolarmente importante, specie poi alla luce di tutta la violenza che è passata e passa sui territori occupati. Da parte loro il fatto di scegliere questa via, ovviamente non sono gli unici, perché ci sono, insomma, in Palestina sono sorti negli ultimi anni diverse associazioni che hanno proprio questo scopo, quello soprattutto di fare azioni dimostrative, però è di fondamentale importanza, perché riescono in questo modo ad attirare maggiormente l'attenzione dei media anche occidentali e a non creare poi una situazione così paradossale in cui alla violenza si risponde con la violenza. La loro attività viene svolta all'interno di un centro, Terromeida, che era precedentemente un insediamento ebraico che loro sono riusciti a riconquistare, e questo insediamento in realtà sorge esattamente davanti a una colonia, quindi i giovani di Youth Against Settlements convivono H24 con dei soldati e dei coloni che stanno a 20 metri di distanza da loro. E con tutte le provocazioni che ne conseguono. Con tutte le provocazioni, esattamente, che si vedono anche nel film che ho fatto. La loro attività è particolarmente interessante perché è basata non solo una serie di corsi di lingua inglese, di lingua anche ebraica, che servono per attirare persone, anche cittadini proprio di Al-Khalil, e farli arrivare al centro. Poi è anche una scusa per ritrovarsi e parlare insieme di strategie contro l'occupazione. Ma l'altro elemento interessante della loro attività è proprio quello della testimonianza, e quindi della testimonianza di ciò che accade, perché loro lo dicono anche chiaramente nello stesso mio documentario, le telecamere sono le nostre pistole. Loro hanno scelto questo modo di fare resistenza, cioè quello proprio di raccontare e di testimoniare, perché questo è l'unico modo che hanno per far vedere al mondo quello che succede. Senti Livia, come rete romana di solidarietà con il popolo palestinese avete organizzato una serie di proiezioni al Cine Club de Tour e hai anche con te un ospite che stai portando in giro per l'Italia legato proprio a questo lavoro. Sì, esattamente. Questo documentario Al Khalil è stato proiettato sia al De Tour nell'ambito della rassegna Palestina per principianti, che ha proprio un po' questo scopo, diciamo, questa volontà di parlare di Palestina non solamente agli addetti, a coloro che sono già sensibilizzati, ma anche a coloro che tutto sommato non ne hanno mai sentito parlare. Oltre alla proiezione del De Tour, insomma, questa cosa rientrava appunto un po' nel palinsesto che avevamo deciso per questo Cineforum. Il video Al Khalil, il video reportage, è in questi giorni in giro per l'Italia, cosa che insomma per me è molto importante, è una grande gioia, perché questo avviene in concomitanza con la visita in Italia di uno dei testimoni che io ho intervistato, è Badia Dwaik, che è il vice coordinatore di Youth Against Settlements, quindi di questa associazione. In questo momento siamo a Milano, ieri eravamo ad Arcore, o ad Hardcore, come dicono i cittadini di Arcore. Saremo il 27 a Venezia, a Forte Marghera, e il 28 a Mestre, quindi c'è una... A questo punto dacci dei riferimenti internet per chi vuole sapere di più sul tour di questo. Sì, tutte le date nel dettaglio sono visibili sul sito www.assopacepalestina.org. Benissimo. È uno dei primi post che si trovano in bacheca, forse non più il primo, perché nel frattempo sono successe altre cose, quindi la rete romana nel frattempo si sta muovendo molto, anche con una serie di lettere che intendiamo spedire al Presidente della Repubblica, anche al Papa, insomma, per sensibilizzarli nei confronti della questione palestinese. E a proposito di questo, io volevo solamente ricordare solo brevemente che appunto oggi, come dicevo in apertura, è una giornata molto importante, la giornata della liberazione, e a Milano sta per iniziare il corteo appunto del 25 aprile, e accanto alle varie brigate ebraiche, all'AMPI, ci sarà anche una delegazione con delle bandiere palestinesi, ci sarà anche il nostro amico Badia di Al Khalil, che sfilerà proprio per ricordare che la liberazione è proprio liberazione contro tutte le oppressioni e le occupazioni, ed è un concetto che non ha tempo e non ha confini di spazio, quindi ecco, siamo uniti in questa giornata anche agli amici di Al Khalil. Bene. Livia, io aggiungo che il link per vedere il tuo documentario su YouTube l'ho messo sulla pagina Visionari sul sito internet della radio, per cui per chi volesse saperne di più c'è anche questa possibilità di visionare il documentario. Un abbraccio, a risentirci presto. Certo, a presto, grazie mille. Buona giornata, Livia. Buona liberazione. Buona liberazione. Di nuovo i contatti, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, poi c'è la pagina Visionari sul sito internet della radio e anche su Facebook. Sempre a proposito di Palestina, siamo in collegamento con Fulvio Renzi, direttore artistico del progetto Restiamo Umani, The Reading Movie. Ciao. Fulvio, benvenuto a Visionari su Onda Rossa. Ciao a tutti. Dico Restiamo in Palestina perché abbiamo appena parlato con Livia Parisi per il documentario Al Khalil. Tra l'altro, invece, Restiamo Umani, The Reading Movie, ho avuto modo di ospitarne delle parti recitate all'interno della mia trasmissione Radio Teatro, e anche con alcuni capitoli abbiamo mandato in onda, quindi abbiamo parlato anche di del progetto Sotto quelle vesti. Però è un progetto più articolato, raccontacelo un po', Fulvio. Ma noi abbiamo iniziato oramai 2 anni fa, appunto dopo, a 2 giorni dalla scomparsa di Vittorio, abbiamo registrato la prima lettura. Vittorio Arrigoni, per chi ci ascolta, chiaramente. Vittorio Arrigoni, certo. Dopo la sua scomparsa, al 17 di aprile, a 2 giorni dalla sua scomparsa noi abbiamo registrato la prima lettura e poi non ci siamo più fermati. L'ultima lettura l'abbiamo registrata ieri, in Ramp Up, a Praga, infatti adesso stiamo tornando a Milano da Malpensa, siamo appena arrivati. E quindi entro la fine del mese avremo tutto quanto il lungometraggio pronto e disponibile per download, per chiunque voglia organizzare delle proiezioni. È già aperto al link restiamoumani.com oppure sul link thereadingmovie.tv. Si può vedere il lungometraggio per intero e poi partecipare, compilando il modulo si può partecipare alla proiezione. Praticamente avete fatto leggere i testi di Vittorio a personalità, varie personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Certo, certo. Sì, ormai lo diamo per scontato, sono 2 anni che comunque lo facciamo, e quindi sì, beh, Stefan Hessel, scomparso da poco, Akiva Orr, Roger Waters, Noam Chomsky, Nobel per la pace Meredith Maguire, oltre ovviamente alla madre di Vittorio, Maria Elena Delia, Don Gallo, chi altro? Il rabbino presidente della portavoce della Natura e Carta. Anche Monio Vadia, che abbiamo avuto ospite. Monio Vadia. Certo, diciamo, abbiamo selezionato questi personaggi appunto per aver sempre lavorato per i diritti umani, e in questo caso per essersi sempre esposti per il problema israelo-palestinese, ecco, a favore dei più deboli, a favore degli innocenti, che sono i palestinesi, sono i bambini. E Fulvio, ci sono già delle scadenze pubbliche di presentazione, volevo chiederti, e poi anche riferimenti internet per chi vuole accostarsi a questo progetto. Appunto, queste proiezioni pubbliche che abbiamo aperto, abbiamo in pratica dal 15, in ricordo appunto del secondo anno dell'anniversario della scomparsa di Vittorio, dal 15 al 25 oggi, sono state totalmente gratuite. Oggi ci saranno una decina di proiezioni in tutta Italia, anche credo in Grecia. Comunque basta andare sul sito thereadingmovie.tv oppure sul sito restiamoumani.com e seguire il link Make Screening, e lì trovate il calendario. Oltre il 25, da domani diciamo, accettiamo una piccola donazione, diamo l'autorizzazione alla proiezione con una piccola donazione. La donazione a cosa ci serve? A diffonderlo. Infatti chi non possa donare per problemi, magari un'associazione non ha fondi per poter fare questa cosa, chiediamo di portare altre 3 associazioni. Benissimo. Per cui per diffondere proprio le parole di Vittorio. Sì, se un'associazione non ha fondi da investire in questa cosa, basta che porta 3 altre associazioni che organizzino 3 differenti screening, e per tutti sarà gratuito. Benissimo. E niente, tutto qua. Chiedo a tutti quanti di andare sul sito e di organizzare le proiezioni. Benissimo. Fulvio, ci sentiamo prossimamente anche per le novità rispetto al progetto, va bene? Certo, certo, assolutamente. Ok, allora un abbraccio e a presto. Grazie, ciao ciao, un abbraccio a voi. Ciao. Ciao. Fulvio Renzi, direttore artistico del progetto Restiamo Umani, The Reading Movie. Questo è Visionari su Onda Rossa, ogni giovedì dalle 14 alle 15. Proseguiamo. Riccardo Sesani, regista di Una vita violata, in uscita il 26 aprile, domani al Film Studio qui a Roma. Si parla di violenza sulle donne. Riccardo, benvenuto a Radio Onda Rossa, credo sia la prima volta che ci sentiamo. Sì, grazie. Sì. Allora, raccontaci di questo progetto. Questo progetto nasce diversi anni fa, diciamo su un input che mi diede a suo tempo un pubblico ministero è anche procuratore della Repubblica, ex procuratore della Repubblica di Rimini, quando io feci nel 96-97 un film tratto da un suo libro, Un caso d'amore. Questa idea così si vede che è passata attraverso una sua esperienza quando era pubblico ministero, poi dopo io l'ho elaborata nel tempo, l'ho trasferita nel nostro ambiente, in quello dello spettacolo, perché diciamo il fatto di cronaca si svolgeva in un altro ambiente, e poi dopo vari tentativi, risultati diciamo inutili, di trovare chi mi producesse o finanziasse il film, ho preso il toro per le corna e mi sono messo io per la prima volta al mio dodicesimo film a coprodurlo, insomma, ecco, questa è un po' la cronistoria. Riccardo, l'ispirazione viene da una storia, ma credo i riferimenti sono a più vicende. Purtroppo è un fatto di cronaca quasi quotidiano, quindi sono quelle cose che uno non vorrebbe mai che succedessero, invece la cronaca ogni giorno ci mostra di questi fatti, stalking, violenze sulla donna, cose abbastanza aberranti. Tu da quale prospettiva hai voluto trattare l'argomento? Ma il film si praticamente è incentrato su un processo, sì. Su un processo che per violenza carnale, per stupro. Questo processo è intervallato da tutta l'istruttoria che il pubblico ministero precedentemente ha fatto, insomma. Poi con dei risvolti anche leggermente sentimentali fra il procuratore della Repubblica, che ha vissuto la stessa cosa che ha vissuto la protagonista del film, la ragazza che denuncia il suo violentatore, e poi con degli epiloghi abbastanza, come un epilogo abbastanza drammatico, anzi tragico quasi. Rispetto all'aspetto giuridico, hai fatto riferimento a... Noi abbiamo avuto due o tre consulenti, ecco. E poi logicamente quando tu affronti un legal movie, in Italia purtroppo i processi... Noi siamo abituati a vedere i legal movie americani, dove c'è anche una spettacolarità del processo, quindi riescono a tenere il pubblico avvinghiato alla vicenda. In Italia, se uno volesse pedissequamente seguire quello che è proprio un processo penale, si svolge in maniera un pochino più, tra virgolette, noiosa, insomma. Quindi noi ci siamo anche dati delle licenze così per poter un po' muovere la situazione del processo, perché ripeto, il 60-70% del film si svolge in un'aula di tribunale, insomma, quindi, diciamo il 50%. Ecco, proprio a proposito di aule di tribunale, che impressioni hai rispetto alla legislazione e a come vengono affrontati i casi? Ma quello che io ho notato in questi casi, quando poi la donna riesce a superare la violentata, diciamo, la donna riesce a superare quello che è, come si dice, il colpo che subisce, la denuncia viene sempre fatta attraverso le maniere più canoniche, quindi si va dai carabinieri, si va dalla polizia, si va a denunciare, ecco. E dopo da qui nasce un iter un pochino più complicato, che se una donna si rivolgesse direttamente, come succede nel mio film, alla Procura della Repubblica, probabilmente riuscirebbe a essere ancora più tutelata e a superare certi passaggi che possono rallentare quello che è la ricerca, insomma il modo di poter mettere il violentatore con le spalle al muro, insomma. Ecco. Quindi sarebbe opportuno, a tuo modo di vedere, superare alcuni passaggi? Ma sì, adesso io non sono proprio un esperto al 100%, però parlando con i miei consulenti del film, parlando con le persone di legge, anche con dei magistrati, la donna violentata può andare direttamente alla Procura della Repubblica, denunciare e fare degli esposti, e quindi si guadagna nel tempo, si guadagna nel discorso nei confronti del crimine, insomma. Sì. Riccardo, passando al film, esce domani al Film Studio, e poi quali saranno? Essendo un film indipendente, sì, quindi prodotto in maniera indipendente e anche distribuito da una distribuzione non da una major, diciamo, mm-hmm, ma da una distribuzione indipendente, la Mediterranea, che è riuscita ad avere questa uscita. Dopo noi abbiamo fatto 4-5 proiezioni test, tutte molto positive, e adesso si spera che dopo Roma si possa riuscire a avere le altre situazioni per quanto riguarda perlomeno il circuito di sé, ecco, insomma, il circuito commerciale è più difficile, perché quando il film non è appunto di una grossa compagnia è difficile riuscire ad avere una distribuzione, anche se adesso col fatto del digitale si ha più possibilità di uscite, di avere sale, però rimane sempre difficile se non sei inserito in una distribuzione, in una grossa compagnia di distribuzione. Sì. Avete un vostro riferimento internet? Ma questo adesso io non ti so dire veramente, però probabilmente l'ufficio stampa sicuramente può essere meglio informato di me, insomma. Va bene, allora forse basterebbe cercare su un motore di ricerca Una vita violata, Riccardo. Sì, esatto. Va bene, Riccardo, allora ci sentiamo prossimamente, se per te va bene, così ci direi le prossime novità. Va bene. Un abbraccio, grazie, e buona liberazione. Tanto. Grazie, altrettanto. Riccardo Sesani, regista di Una vita violata, in uscita domani 26 aprile al Film Studio qui a Roma. In collegamento con Stefano Cattini, regista del documentario L'ora blu, che sarà proiettato domani 26 aprile qui a Roma al Blue Desk nell'ambito della rassegna curata da Cinema Italiano sui DVD che sono prodotti e realizzati proprio da Cinema Italiano. Stefano, intanto buona liberazione. Grazie, grazie anche a voi. Allora, L'ora blu... una storia curiosa, come l'hai scoperta? E raccontiamola poi. Beh, è una storia che di una coppia di anziani quasi ottantenni che vivono in Maremma, in un luogo molto isolato, ed è il racconto, diciamo, di un periodo della loro vita in cui, diciamo, avvengono delle cose, soprattutto litigi, perché la moglie, diciamo, che è un po' burbera e chiede al marito di fare delle cose, cioè di costruire delle casette per un'idea un po' stravagante che ha, non neanche finalizzate a qualche cosa di concreto. E così è il ritratto di due persone per mettere in mostra contraddizioni, ambiguità, ma anche per mettere in mostra due anziani che continuano, diciamo, a progettare la vita come se fossero giovani e che tutto sommato si vogliono anche bene, però a modo loro. E come hai scoperto questa realtà e perché poi hai voluto raccontarla con un documentario? Ma io parlavo con un'amica del fatto che avevo lavorato con i bambini e comunque volevo raccontare una storia su persone anziane, e cercavo una storia che potesse raccontare un modo di invecchiare originale, ma anche, come dire, stimolante, cioè, come dire, la vita da spremere fino in fondo. E così, tra le varie persone con cui ho parlato, c'era questa amica che aveva proprio conosciuto lei, Ilario e Irma, in un'occasione particolare, andando a raccogliere delle olive da quelle parti, e mi ha detto: ti voglio far conoscere queste persone. Così siamo andati in Maremma e da allora io ho continuato ad andare, diciamo, una volta al mese, una volta ogni due mesi, un po' perché mi piaceva, un po' perché volevo capire se potevano essere quelle persone con cui riuscire a raccontare la storia che avevo in mente. e diciamo così, un annetto per capire, conoscere la storia, divertirmi, e poi ho scoperto il modo di raccontarlo, diciamo il profilo dal punto di vista della storia d'amore, e da lì sono partito. Una storia di questo tipo, la creazione di una micro comunità ecologica anche da parte di una coppia di anziani, è possibile? Hai avuto modo di constatarlo? Ma è possibile, diciamo così, se non... ma non è esattamente una micro, diciamo così, un micro villaggio ecologico. In realtà... diciamo che loro sono allo stesso tempo ecologici e antiecologici, nel senso che fanno queste cose in mezzo alla natura e vivono molto bene il rapporto con la natura, quindi stanno molto bene con gli animali, stanno molto bene, diciamo così, osservano i mutamenti dell'ambiente, non sentono il bisogno della città. Allo stesso tempo però quello che fanno non è completamente ecologico, cioè prendono un pezzo di macchia e ci cambiano, diciamo, un po' gli equilibri, un po' modo loro, cioè costruendo per esempio laghetti o case sugli alberi che non abiterà poi fondamentalmente nessuno, e fanno passare cavi dell'elettricità nei fossi per portare luci ovunque, perché poi questi villaggi li illuminano. No, è più che altro è un progetto stravagante legato al piacere di creare, cioè ogni casa è ispirata a qualcosa in particolare, magari a un libro letto come 20.000 leghe sotto i mari o la casa sull'albero del barone rampante, e quindi non so se si può dire che è un progetto ecologico. E beh, stravagante rende l'idea, insomma. Sì, stravagante. Stefano, il titolo, L'ora blu? L'ora blu nasce da questa, diciamo, l'idea di un'ora della giornata in cui i colori più forti sono spariti, però restano tinte più delicate e, come dire, non c'è più... è una metafora un po' dell'autunno della vita, e quindi... però è un orario anche molto delicato e molto interessante, solo che richiede, diciamo così, uno sguardo più attento per vedere. All'interno del film però c'è un momento in cui Ilario, tra le tante cose che lo stimolano nello stare con la natura, lui è un ex ingegnere, è appassionato di tante cose, ha una grande cultura anche scientifica, legge riviste come Le Scienze e dice: guarda, mi ha incuriosito una domanda, se il sole non fosse come quello che abbiamo, ma fosse una stella blu, di che colore sarebbero le piante? E per lui questa era una domanda molto importante, quindi l'ora blu, che è, diciamo così, metaforica, però ho cercato anche di visivamente, quando mi fa questa domanda, di riuscire a mostrare le piante in questo orario della giornata in cui effettivamente tutto appare blu, come se ci fosse questa stella, il nostro sole fosse blu. E niente, questo. Però fondamentalmente è quello. Fa parte di questo documentario, di questa rassegna realizzata da Cinema Italiano, e mi sembra un'esperienza interessante al Blue Desk qui a Roma. E il tuo rapporto con Cinema Italiano? Ma il rapporto con Cinema Italiano, diciamo, è venuto tramite un premio vinto al Festival dei Popoli, dove loro da 2 anni hanno avuto questa ottima idea di premiare un documentario italiano con un premio di distribuzione, quindi anziché ricevere un premio in denaro si riceve la pubblicazione del DVD in collaborazione con CG Home Video, quindi l'ex Cecchi Gori, e questo è il piacere, insomma, di avere un'opera che girerà, perché uscirà il 4 giugno il DVD in tutte le librerie, diciamo Amazon, le videoteche che sono rimaste, insomma avere effettivamente un DVD in catalogo. E questo è l'origine di questo rapporto. Il premio è stato vinto appunto a novembre all'ultimo Festival dei Popoli. Stefano, io ti ringrazio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie mille. Ciao Stefano. Sì, ciao. Stefano Cattini, regista del documentario L'ora blu, domani 26 aprile al Blue Desk qui a Roma. E dalla campagna della Maremma ci spostiamo alle montagne di Cogne con Valeria Lievi, regista del documentario Questa miniera, che è in all'interno della 61esima edizione del Trento Film Festival e sarà proiettato il 27 aprile, dopodomani, al Cinema Modena. Valeria, ben trovata a Visionari su Onda Rossa. Ciao Federico, grazie di concedermi questo intervento. Benissimo, dimmi tutto. Allora, raccontaci un po' di questa realtà mineraria di Cogne. Beh, la realtà mineraria di Cogne è una realtà che appartiene a secoli e secoli, perché ha un passato molto importante. Il documentario nello specifico racconta, non è un documentario storico, è un documentario narrativo, racconta in realtà quello che attualmente il paese, alcuni personaggi più di altri, stanno facendo per tentare di conservarla questa miniera. Quindi da quel passato che è stato per loro molto importante, perché gli ha dato il permesso veramente, facendo un lavoro umilissimo, ok, e molto molto duro, di costruire le case, crescere le famiglie, cioè di riuscire ad attivare, di non entrare in pratica, ma di rimanere nel proprio paese. Sì. La volontà appunto di queste persone è quello, visto che siamo di fronte ad un momento in cui si sta tentando di chiudere la concessione mineraria e quindi non avere più l'attività estrattiva, che non c'è attualmente ma magari in un futuro potrà esserci, ma non permette neanche di riconvertire questa preesistenza, questa miniera, ad un'attività museale, insomma quello che si potrà fare in futuro per conservare la memoria di questa miniera. E quindi è una battaglia in sostanza. Sì, anche perché Cogne viveva di allevamento e di miniera, soprattutto sono passate migliaia di minatori, ho avuto modo anche di vedere il documentario, quindi ci sono una serie di testimonianze anche filmate e fotografiche, e diciamo il discorso miniera è stato chiuso nel 2011, quindi un paio di anni fa, e quindi si vive in questa situazione di limbo. Mi sembra però una località anche anch'essa messa in un limbo, non c'è una vera e propria vita vissuta in maniera, non so, di comunità. Mi sembra si vede la scena di un consiglio comunale in cui si parla anche della questione miniera, però insomma ci sono anche nel tuo lavoro molti silenzi, molti spazi vuoti, l'impressione sia di un di abbandono, un paese che sta morendo per certi versi. No, Cogne è una ridente località turistica in realtà in certi periodi dell'anno, che ovviamente risente di tutto quello che è l'Italia in questo momento, quindi non è altro che uno staccato proprio del molto attuale, se vogliamo. Okay. Siamo di fronte ad un momento in cui molte realtà che fino a 5-10 anni fa vivevano serenamente riconvertite al turismo, attualmente si stanno trovando in quelle situazioni che erano gli anni 50, cioè in cui la gente è di nuovo costretta ad emigrare perché non c'è più lavoro. E quindi, se vogliamo, la miniera in questo modo, è questo che ho voluto fare in realtà, in questa forma simbolica, rappresenta esattamente quello, cioè quello che vivevamo in un passato che ci sembra tanto lontano, in realtà è qua e ci sta invadendo. Questo. Solo che non ci sono più le miniere dove la gente può tornare a lavorare e crescere le famiglie. È questo che manca. Sì. Valeria, una delle scene più suggestive è la parte finale in cui c'è questo recupero con questa sorta di bandierine tibetane su cui sono stampate le immagini, le fotografie di tutti i minatori che hanno attraversato nel tempo queste miniere in una località, ecco, abbandonata, che è la miniera oggi, e queste bandierine che sventolano nell'aria. Insomma, è piuttosto suggestiva questa immagine che hai voluto dare. Questa immagine che io ho potuto dare è stata data grazie ad un artista del luogo che si chiama Barbara, e quindi si chiama come la santa protettrice dei minatori, sì. Santa Barbara, questo nome gliel'ha dato suo nonno, che era il direttore della miniera, e lei è una delle persone appunto che difende la miniera, la memoria, e ha voluto omaggiare questa preesistenza di archeologia industriale, che è lo stabilimento a 2500 metri di altezza, con queste bandierine, facendo appunto questa installazione in un luogo che è veramente a livello morfologico molto simile al Tibet, ed è un luogo dove veramente nei momenti più fervidi della miniera vivevano 700-800 persone isolate. Tra l'altro si estraeva magnetite, se ricordo bene. Volevo chiederti anche come ti è venuta la spinta a raccontare questa storia e come ti ci sei avvicinata, come hai voluto metterla per immagini. La storia viene da un passato che mi appartiene, perché anche mio nonno è stato minatore, non è stato minatore alla miniera di Konya, ma è stato uno dei carusi a 7 anni in Sicilia, insomma, nelle miniere di zolfo, ancora più estrema forse, come, oddio, è talmente estrema che non so, non è una gara. La miniera è, diciamo che è estrema ovunque, insomma. Appunto. Quindi io vedo questa cosa dentro, che poi spesso viene taciuta, perché delle origini umili sono qualcosa che spaventa, no? Sì. Non si sa se spaventa più noi stessi o gli altri, francamente. Io ne vado piuttosto fiera, nel senso che comunque mio nonno è riuscito a crescere la famiglia, e a un certo punto questa famiglia l'ha portata a Konya, cioè noi siamo arrivati da turisti a Konya, e lì ricordo che, ed è un ricordo molto forte, che mio nonno scambiava delle parole proprio sulla vita in miniera, e io non capivo cosa fosse, perché non mi era stata tramandata, mi era stata nascosta questa cosa, ovviamente, e quindi a un certo punto l'ho cercata e l'ho scoperta e ho ritrovato in questi novantenni, perché ci sono i novantenni nel film, non ci sono i ventenni, ovviamente, la luce che era negli occhi di mio nonno. Valeria, dopo la presenza al Trento Film Festival c'è già in campo un discorso distributivo di qualche tipo, oppure c'è un sito internet, un tuo sito internet dove si possono avere maggiori dettagli su eventuali programmi di proiezione? Allora, c'è un sito internet che è come il titolo, quindi www.questaminiera.com, che noi aggiorneremo con i festival e le proiezioni in base appunto ai vari canali distributivi che andremo ad attivare. Sì. Si tratta di un documentario prodotto dall'assessorato all'istruzione e cultura della Regione Autonoma Val d'Aosta, ma che ovviamente è una produzione anche semi-indipendente, quindi non abbiamo in Italia un mercato incredibile, speriamo insomma in qualche sala e magari qualche canale anche alternativo. In questo momento si va più in quella direzione, diciamo. Quello che uno si augura ovviamente da autore è di dargli la massima visibilità possibile, certo. Questo è il maggior augurio che uno possa farsi. Bene, te lo faccio anche io e ti abbraccio, a risentirci presto. Ti ringrazio Federico. Ciao Valeria. Grazie a tutti. Ciao. Valeria Lievi, regista del documentario Questa miniera, al Cinema Modena sabato 27 aprile nell'ambito della 61esima edizione del Trento Film Festival. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, per inviarci sms in diretta 342-357-4357, e poi c'è la pagina Visionari sul sito internet della radio ondarossa.info e poi di Facebook. Niente da fare per l'ultimo collegamento con Stefano Liberti, co-regista del documentario Campo Sosta, su una vicenda rom qui in Italia, e ne parleremo magari la prossima settimana, visto che comunque non c'è una scadenza legata ad una data di proiezione. Per quanto riguarda Visionari di questa settimana è tutto, vi rimando a giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. I riferimenti nuovamente il sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, dove trovate gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di questi giorni tra ieri e il 29, e poi le nostre indicazioni, i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda la settimana sul piccolo schermo, e poi gli altri appuntamenti della settimana tra rassegne, festival e proiezioni. C'è poi il link che rimanda sia alla puntata precedente che a tutte quelle del 2013 e parte del 2012.